Siamo in collegamento con Claudio Treves del Dipartimento Politiche del Lavoro della CGIL Nazionale. Il 30 novembre i lavoratori scenderanno in piazza, convocati dai sindacati, per protestare contro la finanziaria. Quali sono le vostre ragioni, in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro? Direi che intanto c'è un problema di carattere generale. Questo governo ha presentato una legge finanziaria, dopo averla fatta vedere alle organizzazioni sindacali, a settembre. Da allora è successo di tutto, la legge finanziaria è stata radicalmente modificata con un balletto durato alcune settimane tra le forze politiche della maggioranza sulle questioni taglio delle tasse eccetera, senza che le organizzazioni di rappresentanza sociale, quindi non soltanto noi, abbiamo avuto, diciamo così, il bene di un confronto con il governo medesimo, quando poi il governo stesso sapeva dell'esistenza da un lato di una piattaforma di CGIL e CISL UIL dal titolo Costruiamo il futuro, approvata a marzo di quest'anno, e dall'altra di un impegno che con parti rilevantissime delle associazioni imprenditoriali, a cominciare da Confindustria, ma non solo, queste organizzazioni sindacali avevano fatto sottoscrivendo il documento Impegnarsi al Sud, quindi assumendo il rilancio del Mezzogiorno come una chiave, diciamo così, esplicita per lo sviluppo economico. Di tutto ciò nella finanziaria non c'è alcuna traccia, anzi si privilegia un'operazione politicamente inaccettabile, cioè quella della riduzione della presenza pubblica contrabbandata con il miraggio di un taglio delle tasse. Questa è un'impostazione di politica economica radicalmente contraria agli interessi del mondo del lavoro e per questo noi cominciamo domani a mobilitarci, ma non ci fermeremo certamente con le 4 ore di sciopero. Quali sono le proposte della CGIL per quanto riguarda i cosiddetti esclusi dai diritti dei lavoratori, cioè i lavoratori che volente o nolente sono costretti ad accettare contratti a tempo molto determinato e reiteratamente nel tempo fino ad arrivare a una concezione del lavoro del tutto flessibile? Il sindacato, la CGIL in particolare, ha delle risposte per questi tipi di lavoratori? La CGIL è stata l'unica organizzazione sindacale in Italia a non accettare il tipo di traduzione legislativa del contratto a termine, che coincide con la sua liberalizzazione, che è stato il vero biglietto da visita di questa maggioranza, di questo governo, e stavamo nel 2001. Che la CGIL ha combattuto a difesa dei diritti delle persone che lavorano con la battaglia sull'articolo 18, e che contro la filosofia espressa da questo governo, emblematicamente rappresentata dalla legge sul mercato del lavoro, la numero 30, e i decreti da essa conseguenti, la CGIL ha raccolto 5 milioni di firme sulle proposte che adesso giacciono in Parlamento come proposte alla tutela e alla estensione dei diritti. Detto in una parola, noi pensiamo che bisogna riconsiderare, modificare l'articolo 2094 del Codice Civile che definisce il lavoro subordinato, includendo nell'attività di lavoro subordinato tutto quanto oggi è economicamente dipendente, ovvero sia anche gran parte delle attuali collaborazioni coordinate o continuative o a progetto, che dir si vogliano. Quindi, qualunque sia la forma giuridica del contratto tra lavoratore e datore di lavoro, se questa si traduce in una dipendenza economica del lavoratore, allora a quel lavoratore devono spettare le tutele, i benefici e le garanzie del lavoro attualmente a sostegno del lavoro subordinato. Questa ci sembra un'operazione di grandissimo rilievo politico e culturale, perché appunto evita il rischio del dumping sociale al quale oggi stiamo assistendo, cioè che le imprese, per il risparmio di un certo numero di punti previdenziali, offrano rapporti di lavoro sempre precari, in particolare collaborazioni a progetto finte o addirittura l'obbligo dell'apertura della partita IVA, e invece abbiano come strada obbligata quella dell'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, quindi in regime di subordinazione, o il vincolo dell'indicazione della causale, cioè della ragione in base alla quale quell'impresa non è nelle condizioni di assumere a tempo indeterminato.